Buongiorno a tutti, racconteremo alcune cose di questa 18ª edizione di Ipercorpo, anno 2022 Trattare l'aria. Intanto per noi è un'edizione particolarmente importante perché ci riappropriamo di una parte del deposito di ex ATR che era stato chiuso fino in realtà a pochi giorni fa per la presenza di un cantiere. Questo cantiere che è stato smantellato da pochi giorni ci ha permesso di portare il deposito verso il futuro perché è stato un intervento di consolidamento necessario per poter poi pensare a futuri sviluppi. È con bella soddisfazione che domani apriremo le attività estive del deposito ex ATR con Need Docs, in particolare con un'anteprima. Questa edizione di Ipercorpo per noi è particolarmente importante perché è un'edizione in qualche modo anche psicologicamente di uscita dalla pandemia, si spera, o comunque da una situazione più grave. E forse anche il nostro titolo ha a che fare con questa idea di riportare aria, riportare ossigeno. Quindi per noi è un'edizione particolarmente importante perché ci riappropriamo di alcuni spazi, del nostro spazio di ex ATR, continuiamo la collaborazione con l'Arena Forlivese, ma è un'occasione anche particolarmente importante per la collaborazione che da quest'anno abbiamo con Crisalide Festival, che è una collaborazione estremamente articolata, l'abbiamo costruita in maniera quasi automatica, è stato un flusso attraverso l'ospitalità doppia ad artisti, in questo caso Panzetti e Picconi, ma anche attraverso il fatto di avere un lavoro di Città di Ebla che sarà ospite a Crisalide, e un lavoro di Masca che sarà ospite a Ipercorpo, Kiva. E inoltre l'importante possibilità, grazie al Teatro Félix Guattari, uno spazio di grandissima importanza culturale per questa città, di poter ospitare un lavoro, e cioè Sonora Desert, che tenevamo molto, insomma, volevamo portarlo a Forlì, e la possibilità di poter ospitare questa esperienza è avvenuta grazie al fatto che il Guattari si è reso disponibile, Mask Teatro ci ha dato la possibilità di poter avere nel secondo weekend questa opportunità. Parliamo di 2 weekend lunghi, cominceremo il 26 di maggio, quindi giovedì prossimo, fino a domenica, e poi da giovedì 2 giugno fino al 5, quindi sono 2 weekend lunghi. Però cederei subito la parola a Davide Ferri, che ci racconta la sezione arte del festival. Allora, buongiorno a tutti. Come ogni anno, io comincio sempre con questa frase di rito e lo faccio anche quest'anno. La sezione arte rilancia alcune suggestioni che vengono dal titolo del festival e quest'anno il titolo del festival, Trattare l'aria, porge alla sezione arte delle bellissime suggestioni. Porge delle bellissime suggestioni perché l'aria è un tema che attraversa la cultura artistica del Novecento, è un desiderio di tantissimi artisti nel corso del XX secolo e anche oggi, quindi, quello di maneggiare l'aria, maneggiare l'aria come materiale effimero, come materiale incorporeo, come materiale imprevedibile, cioè di farlo diventare, no, un vero e proprio materiale della scultura. Trattare l'aria funziona quest'anno come una progressione di opere, la sezione arte. Una progressione di opere che però ha delle differenze rispetto allo scorso anno. Allora, noi da qualche anno a questa parte, in particolare nelle due edizioni che si chiamavano Verso Sera, abbiamo lavorato in uno spazio soltanto, cioè nell'Arena Forlivese, presentando le opere una per ogni sera del festival. Quest'anno è ancora così, in parte, nel senso che le opere vengono presentate una dopo l'altra, però diversamente dalle ultime due edizioni, le opere non se ne vanno il giorno dopo, ma restano e quindi in qualche modo costruiscono una specie di spartito, partitura che somiglia a una mostra. Lo dico sempre, come dire, con grande prudenza perché Ipercorpo non si fanno mostre, però ecco, mi piace di più chiamarla appunto partitura, spartito, dove le opere inevitabilmente entrano in relazione l'una con l'altra. Si comincia venerdì 27 maggio con un'opera che è anche l'opera che è stata scelta quest'anno come manifesto di tutto Ipercorpo, è un'opera di Nicola Samorì, si colloca nell'Arena Forlivese, quindi solo nel caso di Nicola Samorì noi andremo a occupare lo spazio che abbiamo occupato nelle ultime due edizioni e quest'opera consiste in questa grande scultura, questo grande monumento, chiamiamolo così, ma un monumento effimero, un monumento che si sviluppa moltissimo in verticalità e che racconta, diciamo che è il segno emblematico di Nicola Samorì, anche quando lavora con la pittura, è quello di scorticare, di toccare la pittura per ferirla dopo averla costruita lentamente, meticolosamente. In questo caso invece siamo in presenza di una scultura e questa scultura mostra un corpo, ma un corpo senza organi, un corpo senza muscoli, un corpo che è pelle, un corpo che per stare in equilibrio, un equilibrio molto pericoloso, Claudio vi stava mostrando l'immagine, anche se lì l'opera non è visibile integralmente, bisogna girarci attorno, deve trovare un equilibrio con l'aria, perché l'aria gli passa attraverso. Seconda sera, sabato 28 maggio, Gregorio Botta. Gregorio Botta presenta invece e lavora quindi all'interno del deposito e presenta una grande installazione che presentò nel 2019 ed è questo lavoro che si chiama Grecale, dunque il vento che muove 10 libri con le pagine bianche. E quindi Grecale ci parla di una durata dell'oggetto, in questo caso l'oggetto libro che eccede la durata della vita. Poi ancora, terza sera, Filippo Tappi, quindi siamo alla domenica 29, Filippo Tappi l'artista più giovane, è un artista non dico esordiente perché già un pochino di esperienza ce l'ha, e lui invece presenta due interventi di scultura effimera e lavorerà all'interno del deposito con un grande braciere e quindi col fumo e quindi con l'idea che l'aria sia visibile e lasci anche dei residui o delle scorie che hanno a che fare con un forte odore di bruciato che pervaderà per qualche ora, speriamo solo per qualche ora, tutto quanto il deposito. Seconda settimana, quest'anno ho deciso di includere all'interno di Percorpo anche la pittura, è una cosa che faccio rarissimamente. Uno è Michele Tocca, che da sempre racconta l'aria, racconta paesaggi di nuvole e vapori, sin da quando ha cominciato a dipingere, e poi Beatrice Meoni, che è fortemente in dialogo idealmente con il lavoro di Nicola Samori, perché presenta delle cadute, immagini di cadute, di corpi disarticolati nell'aria e nello spazio, e quindi anche questi sono corpi che trovano il loro punto di equilibrio dialogando con l'aria e con l'atmosfera.